si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Ben ritrovati cari ascoltatori all'appuntamento del sabato a mezzogiorno con l'altra cronaca su Radio 24. Cerchiamo di riportarvi un po' il sorriso dopo una settimana di cattive notizie, insomma l'ordine del giorno, la crisi, i casini del governo, la politica, insomma noi cerchiamo di prendere altri sentieri, seguiteci perché vi porteremo altrove, vi porteremo nella fattispecie a farvi risentire, perché questo è quello che offre la programmazione estiva di Si Può Fare, le storie migliori che sono andate in onda durante l'anno. Subito però vi voglio ricordare anche i nostri contatti, teniamoci in contatto, Si Può Fare Radio 24 su Facebook, Si Può Fare 24 su Twitter, noi aspettiamo come sempre i vostri commenti, le vostre segnalazioni, perché le storie più belle che ci segnalate poi le manderemo in onda a partire da settembre. Che cosa andremo a risentire oggi? Legality Band Project, un progetto che vuole coniugare musica e legalità. E poi, insomma, come si fa a fare un gruppo d'acquisto per mettere il pannello solare sopra casa? È una cosa che sta prendendo piede in Italia, vi racconteremo un progetto in particolare e vedrete, insomma, ne sentirete delle belle, ce n'è per risparmiare. Poi andremo in Emilia, dove eravamo stati qualche mese fa, un anno esatto dal terremoto, per vedere come si ripartiva grazie a dei container volanti per far ripartire tutte le attività commerciali. Poi una bella storia da Milano, già 4 anni fa questo signore qua aveva tolto le slot machine dai suoi bar, dal suo bar Persefone a Milano, perché si era accorto che così non poteva andare. Vi faremo sentire l'intervista che abbiamo realizzato con lui a giugno, quando il comune lo ha premiato per questo. Poi insomma parleremo anche di altre cose, ma restate con noi perché adesso andiamo ad iniziare. Ventu, una canzone del Legal Band Project, Legality Band Project, una iniziativa presentata qualche giorno fa a Milano, un progetto che mette insieme la musica, quindi i giovani, ma anche la legalità e la socialità. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Abbiamo convocato Francesco Maria Gallo, che è il fondatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Fondatore del Legality Band Project, lo ripeto perché prima l'ho detto male. Prima di tutto, questo era dialetto calabrese o sbaglio? Sì, dialetto calabrese, sì, assolutamente. Perché voi venite dalla Calabria? Non tutti. No, sono io che provengo dalla Calabria. Sono nato a Strongolo, un paesino in provincia di Crotone, però poi ho fatto l'università a Bologna. Per quello che ho fatto in realtà non potevo purtroppo rientrare nella mia terra d'origine, quindi sono rimasto a Bologna, poi Milano. Anche questo sarebbe un tema, insomma, da discutere. Insomma, noi abbiamo anche un programma Radio 24 sulla fuga dei cervelli dall'Italia, ma anche dalle regioni italiane. Si chiamava Immigrazione, insomma, questa. Francesco, che si tratta questo progetto che, ripeto, è stato presentato? Adesso noi l'abbiamo messa un po' così in sordina con la musica, però è stato presentato qualche giorno fa a Milano. C'erano un sacco di persone importanti, compreso quell'Ivan Lobello di Confindustria Sicilia, che noi conosciamo per le sue importantissime battaglie per la legalità e contro la mafia. Assolutamente. Legality Band Project è un grande e straordinario progetto di aggregazione sociale e culturale, appunto nell'ambito dei processi di cognizione sulla legalità. La differenza rispetto a tutte le altre lodevoli iniziative di sensibilizzazione che ci sono in quest'ambito è che Legality Band Project, nella sua mission, vuole attivare un percorso non solo di sensibilizzazione, ma anche di cultura del fare, perché vede, spesso capita che quando si va a parlare nei luoghi, soprattutto in quei luoghi laddove c'è bisogno

fiorita delle piante tiene il lingue sempre il cuore. Sai perché voglio vivere così? Questa melodia celestiale, non so di che anno è questa canzone, bellissima, voglio vivere così, ma sul sito, poi trovate sul sito del programma www.radio24.it anche tutta la playlist, insomma anche delle canzoni che scegliamo, è giusto dire anche questo. Chi non vorrebbe vivere così, col sole in fronte, vi dà una mano a catturare il sole in fronte, i gruppi di acquisto del fotovoltaico, una realtà emergente, sono famiglie che si uniscono per affrontare questa impresa di mettere su sopra il tetto di casa, insomma, i lastroni per l'impianto fotovoltaico, una realtà che sta crescendo. Ne parliamo con Pasquale Pizzichetti, che buongiorno intanto. Buongiorno. Che fa parte del gruppo Sole in Rete di Energo Club. Prima di tutto, lei quando ha aderito e perché? La sua esperienza, insomma. Certo, certo. Premetto che con la mia famiglia avevamo già un impianto dal 2007, quindi noi eravamo già molto convinti a Portoguaro, però poi abbiamo deciso di potenziarlo, quindi di raddoppiare. Questo è successo diciamo nel 2012, quindi all'inizio dell'anno, anzi diciamo a Natale 2011. Poi sì, quindi poco più di un annetto fa, insomma. Sì, per lungaggini, poi in realtà abbiamo fatto l'impianto dell'estate scorsa, il secondo impianto l'estate scorsa. Quindi abbiamo totalizzato, c'erano quasi 3 kW di picco prima e sì, abbiamo aggiunto altri 3. E con, con 6 kW lei adesso che cosa riesce a finanziare in termini energetici? Facciamo qualche esempio? Diciamo che prima col vecchio, diciamo il fabbisogno della, abitiamo in una villetta bifamiliare, il fabbisogno era 4500 kWh l'anno. Con il vecchio impianto ovviamente arrivavamo a un 65-70% diciamo del fabbisogno, così invece non avete coperto. Sì. Abbiamo una riserva e pensavamo, siccome stiamo pensando di acquistare l'auto elettrica, pensavamo di utilizzarla in parte per finanziare. Ah, fantastico, certo, perché poi c'è anche un surplus di produzione energetica che può essere in qualche modo. È possibile già convogliarla eventualmente in rete e avere un risparmio sulla bolletta? O io ho sentito dire cose così, oppure ancora. Questo è già così. È già così, quindi questo si può fare. Però voi lo utilizzereste per l'auto. Senta, sono tre gli obiettivi di questi gruppi di acquisto del fotovoltaico: un obiettivo economico, io ho letto anche sul sito di Energo Club, eccetera, un obiettivo sociale e un obiettivo ambientale. Che cosa intendete con. Vabbè, quello economico si capisce, ce l'ha in parte anche spiegato, però è più ampia la questione, no? Sicuramente. Per quanto riguarda diciamo il sociale, si riferisce al fatto che cerca di comprare materiale di provenienza europea e poi di dare diciamo l'impianto a artigiani dell'area cioè, dove risiediamo più o meno. Quindi creare una rete anche con gli installatori, insomma, per cui il gruppo ha i suoi installatori di fiducia, i quali hanno un mercato, magari una nicchia, però un po' più ampia che avere il singolo cliente, insomma, quindi si fa anche rete da questo punto di vista. Poi vabbè, ambientale, perché è ovvio che. E poi ovviamente ambientale perché cerchiamo di consumare meno energia proveniente da combustibili fossili, però c'è anche la questione della diciamo. Queste aziende, questi artigiani vengono selezionati dal gruppo d'acquisto per qualità, e quindi è una garanzia in più aderire a un gruppo d'acquisto. Sì, e poi sì, insomma in realtà, si superano anche le piccole i problemi, insomma si dà un'economia di scala, no? Per cui problemi burocratici, problemi appunto a reperire i fornitori, cioè si entra in una rete che ci pensa tutto lei, insomma, e quindi bisogna solo decidere quando farlo e quanto investire. A proposito di investire, quanto tempo ci vuole per ammortizzare l'investimento del fotovoltaico? Ci racconti magari la sua esperienza o un dato medio, in quanti anni? Diciamo che il primo impianto era costato moltissimo, mi ricordo 20.000 euro, e il secondo impianto è più che dimezzato, 7.500 euro. Quindi questo parliamo di chiavi in mano, IVA compreso, sì, tutto compreso. E quindi il primo impianto diciamo andavamo sugli 9 anni, sì, all'incirca, parzialmente finanziato, e il secondo diciamo siamo lì, forse qualcosa di più, Ma giriamo sempre sui 8-9 anni. E questo anche appunto aderendo a un gruppo d'acquisto. Se invece uno lo fa da solo, probabilmente i costi sono più alti e quindi conviene di meno. Per cui conviene. A parte i costi, c'è anche una questione di rischi, insomma, nel senso che poi ti affidi a delle aziende che non sai, non conosci. Noi quando abbiamo fatto il primo impianto, mi ricordo che prima di consegnare il denaro alla ditta, eravamo in pensiero con la moglie, no? Dico, pensavamo se questi scappano, che succede? Invece qua abbiamo un soggetto che è appunto il gruppo d'acquisto che ci tutela perché ha scelto prima e si frappone, diciamo, tra queste aziende, si controlla, fa da supervisore, quindi noi abbiamo un po' anche una garanzia. Certo, che e pensate anche quanto sarebbe bello che l'Italia delle piccole città, delle campagne, delle periferie fosse sempre più tappezzata di questi impianti che ci faranno risparmiare come collettività e anche come singoli, sì, in qualche anno, però un sacco di bei soldini. Il nostro spot per i gruppi d'acquisto del fotovoltaico l'abbiamo fatto, se lei vuole chiudere in un tipo spot televisivo in 10 secondi. La sua esperienza è stata bella perché? Beh, è stata bella perché intanto abbiamo partecipato a un nuovo modo di pensare l'acquisto ecologico per l'ambiente. C'è anche la dimensione del progetto, perché non è soltanto una questione di portafoglio e d'ambiente, ma si entra anche in una tematica, in una progettualità che ci fa sperare bene per il futuro. E di questo anche abbiamo bisogno. Grazie intanto a Pasquale Pizzichetti del gruppo Sole in Rete Energy Club, che ci ha raccontato questa esperienza qua dei gruppi d'acquisto del fotovoltaico. Adesso invece andiamo in Emilia, l'Emilia che riparte, perché noi non ci dimentichiamo dell'Emilia. Ti comprare. El llanto de los niños compraré, el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprare. Comprare di Jorge Luis Perales è una canzone di questo celebre cantante spagnolo, è anche un po' un omaggio al nuovo papa di lingua spagnola. Comprare perché parliamo dei centri commerciali di Cavezzo in Emilia. Abbiamo detto che noi non ci dimentichiamo dell'Emilia che riparte. Radio 24 ogni mese torna in Emilia per raccontare i passi in avanti che si fanno, ma al di là di questo, il centro commerciale inaugurato qualche giorno fa dentro i container a Cavezzo, insomma, è una situazione disagevole, però almeno l'avete fatto. Io saluto Maria Cristina Ferraguti, assessore alle attività produttive del Comune di Cavezzo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo dal momento dell'inaugurazione, sarà stato un momento anche di festa, naturalmente in un contesto nel quale ci si guarda intorno e ci sono, insomma, ancora le macerie in tutti i sensi. Qual è un po' il morale, il clima in questo periodo da voi? Ma dunque, direi che siamo un po' provati, questo è inutile negarlo, perché insomma il tempo ormai insomma passa l'anno, ecco, come dire. Però c'è da dire che ogni giorno c'è qualche gru in più nel panorama, nello skyline del nostro paese. Le gru sono portatrici di ricostruzione, in questo momento vengono vissute con estrema positività e direi che siamo, insomma, così in piena ricostruzione. E quindi segnali in questo ci sono, positivi. Sono positivi. Quando invece avete realizzato che prima di ricostruire lo spazio che è andato perduto dei negozi era meglio organizzarsi con dei container per dare comunque alla cittadinanza una vita normale anche dal punto di vista delle attività economiche? Dunque, è stato purtroppo una valutazione quasi immediata, nel senso che i negozi che hanno costituito questo centro commerciale così particolare, no? Nelle sue caratteristiche, sono tutte attività che avevano la loro sede nel centro del paese, che è stato forse insomma la parte più colpita, gli edifici anche un po' più attempati, gli edifici anche storici, no? Sì. E di conseguenza i tempi per la ricostruzione si sono preannunciati da subito un po' difficoltosi, parliamo di danneggiamenti gravi se non di crolli. E di conseguenza l'idea di mantenere comunque delle attività di servizio alla popolazione anche per mantenere una vitalità, insomma, certo, nel centro del paese e anche di socializzazione in qualche modo, oltre che di servizio, è saltata subito agli occhi. Io voglio però premettere che sono stati molto bravi commercianti proprio, sì? Per cui non sì, voglio prendermi in mariti che non no, ho. Noi abbiamo preso lei perché no, molto... certo, sappiamo che dietro c'è stato tutto un lavoro, certo, in sono tutti i sensi. Abbiamo chiamato lei perché così ci mette un po' il cappello sopra e ci racconta un po'. Molto volentieri, sono interlocutrice, anzi per il nostro paese comunque un vanto. Lei c'è stata a fare la spesa lì? Ma certo, fra l'altro ci sono tante diverse attività e sono convinta che sia oggettivamente un ottimo servizio che noi stiamo dando ai nostri cittadini. C'è anche l'asilo, io ho letto il bar, il negozio di fiori e l'asilo. Sì, hanno un kinderheim, insomma, dove i bambini possono essere intrattenuti, dove vengono organizzate iniziative a loro misura. C'è un bar, una pizzeria, un ristorante, perché è sopraelevato, sono due piani, non si sono accontentati, hanno fatto una cosa veramente molto particolare, molto bella. E chissà, magari sarebbe bello anche immaginarlo in un futuro come un museo a ricordo di quello che è stato, no? O comunque Ma questo materiale, questi contenitori, sì, che fra l'altro vorrei sottolinearlo perché c'è una positività anche in questo, cioè non hanno utilizzato, diciamo, moduli nuovi fatti ad hoc, loro sono andati a recuperare quelli, sì, che erano vecchi fine corso per il trasporto marittimo, dei container proprio che, come dire, sarebbero stati rottamati, quindi c'è anche una, come dire, una eticità in questa scelta, no? Hanno recuperato e riutilizzato materiali che poi hanno adattato, ma facendo anche proprio fisicamente il lavoro, eh? Cioè non sto scherzando, li abbiamo visti col pennello in mano anche sotto la neve, aiutati un po' da tutti i cittadini volenterosi, e quindi è stato proprio anche motivo di orgoglio per loro, ma per tutti quanti noi, perché sono un simbolo molto positivo della ricostruzione di questo paese, volte della anche, tenacia a volte, no? Proprio anche il percorso che si fa per raggiungere un obiettivo può essere un momento bello, un momento di identità. Le voglio chiedere, prima di salutarci, perché comunque la notizia insomma era questa, l'abbiamo raccontata, non so, il suo telegramma in questo momento alla politica, visto che abbiamo questo Parlamento immobile, no? Questa situazione bloccata, voi invece insomma, no, una situazione difficile quantomeno. Il nostro programma si chiama Si può fare, voi avete dimostrato di potercela fare nonostante quello che vi è capitato di terribile, invece ci giriamo dall'altra parte e vediamo che è tutto fermo. Lei cosa si sente di dire? Io direi che i politici a livello nazionale di questo paese dovrebbero prendere esempio dai loro cittadini, e se vogliono guardare a noi, ma non noi tanto nello specifico come Cavezzo, a noi come colpiti dal sisma e da quello che abbiamo fatto su questi territori in questi 8 mesi, potrebbero imparare tante cose e soprattutto finalizzare tutto non tanto ai campanilismi, ma al benessere, al bene della collettività, che è la cosa che non stanno facendo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci siamo occupati per buona parte dell'anno del fenomeno delle slot machine, delle slot house. Non so se ci avete fatto caso, intorno a voi nelle vostre città c'è un dilagare, ne aprono di continuo. Ora, senza voler fare una battaglia contro il demone del gioco, però forse si sta esagerando, ne stanno prendendo coscienza diversi comuni, diverse regioni, diverse realtà. C'è una legge in Liguria, c'è una legge allo studio in Lombardia, in Emilia Romagna ci sono altre iniziative. Tra poco, tra l'altro, sentiremo anche uno spot, lo risentiremo, quello dei sindaci bipartisan su questa cosa qua. A Milano sta per partire il progetto del comune per una rete contro le ludopatie. Staremo a vedere se sarà l'ennesimo commissione, carrozzone di consulenze varie o quant'altro. Speriamo di no. Un'iniziativa per cercare di mettere un freno al fenomeno del gioco, della ludopatia, laddove ci sono persone che non riescono a fermarsi, giocano, perdono e giocano. Noi abbiamo convocato per l'occasione un antesignano di tutto questo, uno che nel suo bar ha rinunciato tempo fa tanti soldini sonanti che portano queste macchinette perché ha fatto una scelta. Salutiamo Giuseppe Stallone, buongiorno. Buongiorno a voi. Titolare del bar milanese, che già è un'anticipazione, Persefone Caffè. Sì, effettivamente Persefone Caffè, sì. Cioè, è un nome, già volavate alto quando siete partiti, perché vi rifate alla mitologia greca, no? Mi diceva. Beh, chiaro, essendo meridionali comunque tra Sicilia e Calabria, questa mitologia greca era facente parte del posto, per cui... Avevate scritto nelle vostre stelle che non era un bar qualunque. Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Con dei valori, dei punti di riferimento forti, perché voi già alcuni anni fa, prima ancora che nascesse tutta questa attenzione sul fenomeno del gioco, avete tolto le diaboliche, io lo dico, macchinette dal vostro bar. Quanto tempo fa? Io le ho tolte già da, penso, da 3 anni e mezzo queste macchinette, perché a parer mio è privo di conducenza non dire che il tema delle dipendenze patologiche da gioco non è da considerare marginale, esso è una vera emergenza sociale. Quanto ci guadagnava però con queste macchinette? Ha fatto un conto? Diciamo che c'erano dei mesi alterni, ma ci basavamo puliti al mese circa 2.000-2.500 euro al mese. Sì. Non è poco. Pensate, cari amici all'ascolto, che cosa vuol dire questo per un bar, magari un bar a conduzione familiare piccolo, come ce ne sono forse la maggior parte in Italia. Cosa vuol non dire? Tanto piccolo, ma comunque... No, ma adesso io non sto dicendo del suo, sto dicendo in generale. Cosa può voler dire in termini di incasso una roba del genere? Ecco perché oggi... diventa difficile rinunciare anche a questa cosa qua. Lei oggi rinunciare a questi guadagni è veramente difficile, oggi lo era già all'epoca quando io ho deciso di smettere con le macchinette, anche perché sinceramente ci permetteva di pagare determinate spese che un'azienda Ecco, oggi questo è venuto meno, ma con ciò io sono fiero di aver rinunciato a questo guadagno, perché dal punto di vista etico e morale mi sento orgoglioso di questa scelta. Cosa oggi vedeva? Cosa c'era che non andava? Cosa è scattato in lei quando ha preso questa decisione? Immagino perché vedeva qualcosa che non le piaceva, che non dormiva la notte. Intanto bisogna pertanto fare una campagna di sensibilizzazione e di coesione, e credo che bisogna dare il proprio contributo per cercare di arginare questo fenomeno ed evitare una conseguente devastazione ed impoverimento delle famiglie. E coloro che giocano spesso compromettono le loro relazioni sociali e matrimoniali, e credo con conseguente pericolo della loro stessa vita. Io vedevo gente che entrava già triste, cupa, sfiduciata, ne usciva ancora di più con un carico addosso, veramente che non mi permetteva di stare sereno moralmente, e non volevo in tutti i casi contribuire a questo fenomeno. E dopo che avete preso questa decisione, invece poi è maturata la consapevolezza d'aver fatto la cosa giusta, immagino, no? Beh, sì, come le ripeto, io sono molto fiero e orgoglioso di questa mia scelta. Sì. Chiaramente la gente, non venendo più nella mia location, andrà in altri posti. Certo, questo è evidente. Io mi impegno comunque a sensibilizzare questa campagna anti-slot, ma non perché io abbia qualcosa contro le slot, è proprio il modo, il sistema con cui la gente gioca. Oggi ciò che alimenta ancora di più questo atto compulsivo è la crisi economica che stiamo attraversando. La gente perde i posti di lavoro e con esso la fiducia e la speranza. E anche se tutto ciò può sembrare paradossale, aumentano i giocatori, poiché l'ansia e l'incertezza del momento porta le persone a cercare la vincita al gioco e alleviare la loro situazione economica. Senta, ma lei che cosa pensa invece degli altri suoi colleghi che oggi non ci pensano, non ci riflettono, non vogliono pensarci, vanno avanti e anzi magari stanno installando la macchinetta o ce l'hanno? Guardi, ognuno della propria vita, della propria etica, della propria morale è libero di fare ciò che vuole. Non li condanno, perché capisco che io da quando non ho più quell'introito faccio fatica a mantenere equilibrata la mia azienda. Gli altri penso che abbiano anche loro, come tutti oggi le aziende piccole, medie, grandi, delle difficoltà. Stiamo attraversando un periodo veramente che ci sta portando veramente a non capire più quello che succederà domani. Non li condanno, certo che comunque un rimedio va dato, perché la gente non ha più, la società si sente fragile e confusa. E impoverirsi con la speranza di una vincita apposta ancora le famiglie al disastro. Bisogna in tutti i modi cercare di evitare questa dilagante piaga. Gli altri sono liberi di fare quello che vogliono, come le ho già detto. Grazie comunque per questa sua storia, per questa sua testimonianza. Giuseppe Stallone, titolare del Persefone Caffè di Milano, che da anni ha rinunciato alle macchinette da gioco. Speriamo che di casi così ce ne siano sempre di più. Intanto grazie per essere stato con noi. A voi per il vostro intervento, e speriamo che questo nostro discorso porta un auspicio di speranza per tutti coloro che necessitano di assistenza, perché è una malattia vera e propria. E adesso ve lo suggeriamo noi, un bel gioco a cui giocare anche d'estate. Restate con noi. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra dei cachi. Oh, ha ripreso ad essere di moda giocare, pensate, a scacchi. Sì, è un gioco che non è detto che sia per forza per anziani pensierosi che giocano davanti a un bicchiere di whisky con la pipa. No, è un gioco che sta prendendo piede soprattutto tra i ragazzi nelle scuole, e può essere un consiglio anche per le vacanze, perché andiamo direttamente in un campus che si sta svolgendo in Val Seriana a Castione di Presolana con Matteo Zoldan, 36 anni, maestro di scacchi, da anni lavora con i bambini. L'ha intervistato Dario Ceccarelli e ci fa scoprire come la montagna, il calcetto e gli scacchi possano andare insieme d'amore e d'accordo. Buongiorno maestro, le faccio una domanda un po' banale, ma gli scacchi sono anche uno sport? Perché di solito quando c'è una scacchiera si pensa ad uomini adulti che in silenzio, fumando la pipa, si sfidano con la mente. Invece, come state dimostrando, gli scacchi possono essere anche un'attività per ragazzi, no? Beh, certamente sì. Innanzitutto gli scacchi in Italia fanno parte del CONI, sono una disciplina sportiva associata e dunque fanno parte della grande famiglia degli sport italiani. Sono guidati dalla Federazione Scacchistica Italiana e la federazione investe moltissimo, ha investito moltissimo negli ultimi 5-6 anni nel lavoro sui giovani. Infatti abbiamo già circa 9.000 ragazzi sotto i 16 anni che praticano gli scacchi come un vero e proprio sport della mente. E proprio parlando di sport della mente, Chess Project, la nostra associazione, ha fondato sia un progetto scolastico, sportivo, educativo, che si chiama Progetto Scacchi a Scuola, che viene realizzato in molte scuole di Milano e provincia, e adesso anche in qualche scuola addirittura della regione Lombardia o fuori regione. Da questo è nato il primo campus multisport dove gli scacchi sono inseriti come e allo stesso livello degli altri sport. Che tipo di giornata hanno questi ragazzi che fanno questa vita di campus? Scacchi, sport e natura. Sono le tre parole che le caratterizzano la nostra giornata, le nostre giornate qui a Bra. Campus si svolge su 2 settimane consecutive, un primo modulo da sabato a sabato e poi da domenica a domenica. La giornata dei ragazzi è molto intensa ed è scandita da tante attività. Abbiamo escursioni in montagna con canyoning, abbiamo gite in mountain bike, abbiamo tennis, abbiamo beach volley. Abbiamo calcio, abbiamo anche tutti i giorni un paio d'ore nel primo pomeriggio dedicate all'attività scacchistica, e poi ogni sera dopo che i ragazzi hanno finito di cenare, diciamo fra le 9 e le 10, 9 e 10 e mezza, chi vuole può dedicarsi al calcio balilla, altri giocano magari a risico, ma la maggior parte dei nostri ragazzi che ormai sono appassionati si trovano davanti alla scacchiera e fanno brevi partite dove si sfidano a scacchi utilizzando quello che hanno imparato nella lezione quotidiana. Qual è l'età migliore per cominciare a giocare a scacchi? Io credo che l'età migliore possa essere tipicamente l'età della scuola primaria, perciò dai 7 anni, magari 6 sono ancora un po' piccoli, e dai 7 anni in poi la scuola elementare è l'età perfetta per cominciare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è crisi dappertutto. Dappertutto c'è crisi. Oppure semplicemente. C'è crisi, ma non temete, non abbiate paura, perché nonostante la crisi, forse anche grazie alla crisi, stanno nascendo tante nuove professioni, insomma lavori nuovi, lavori originali, curiosi, creativi. C'è chi li ha messi in fila, tutti o quasi, in un libro, L'Inventa Lavoro, e noi salutiamo, l'abbiamo convocato il suo autore, che ci dà così un'iniezione di fiducia e speriamo, insomma. Andrea Sartori, buongiorno. Buongiorno. Giornalista anche lui, consulente editoriale, un passato nella comunicazione in una azienda. A un certo punto, Andrea, ti è venuto in mente di dire, mettiamo insieme tutte le nuove professioni, no? Perché ce ne sono tante, di curiose, forse alcune nate proprio anche grazie alla crisi. Sì, direi che le nuove professioni sono parecchie. Nonostante i dati preoccupanti sulla disoccupazione e sulla difficoltà a trovare un lavoro. Beh, certo, questo non la possiamo negare, no? È ovvio, non è che stiamo dicendo che non c'è appunto la crisi o che non c'è la disoccupazione, però tra le pieghe si intravedono dei percorsi. Sì, ad esempio alcuni di questi percorsi, alcune di queste professioni non hanno neppure un vero e proprio nome già codificato, e questo secondo me è condiviso e conosciuto, e questo secondo me indica che il linguaggio non riesce a stare dietro spesso alla evoluzione del mercato. Come dice un mio amico, le cose che non sai spiegare alla mamma o alla nonna, no? Sì, esatto, un po' quello è il concetto. Un esempio che posso citare tra i tanti è ad esempio quello del progettista, del designer per i servizi alla coabitazione. Oddio! Cioè una persona che crea degli eventi che mettono in contatto tra di loro coloro che hanno degli appartamenti molto ampi da vendere o da mettere in affitto e che tuttavia non riescono a trovare degli acquirenti o degli inquilini proprio perché troppo ampi e con dei canoni elevati. E dall'altro lato appunto le persone che invece vanno alla ricerca di una coabitazione con qualcun altro per dividere le spese e usufruire comunque anche di servizi comuni in un contesto di co-housing. Insomma, sono cose che chi non ci si è imbattuto, insomma, fatica anche a immaginare. Io poi leggo, insomma, dal tuo libro, c'è il consulente filosofico, lo specialista di green marketing, il community manager, tante cose. Tu, per esempio, a parte adesso faremo tutto l'elenco, insomma, come hai fatto a reperire tutte queste professioni? Cioè, appunto, non essendoci albi, non essendoci, sei andato alla Camera di Commercio a vedere le nuove iscrizioni, come hai fatto, Andrea? Dunque, non ci sono degli albi ufficiali registrati presso lo Stato, questo è vero. Tuttavia, una cosa importante da dire è che molte delle persone che si dedicano a queste professioni tendono ad associarsi in associazioni private di categoria per avere maggiore visibilità, per poter anche portare avanti un discorso comune sul fronte dei diritti, della trasparenza dei propri tariffari e anche per mettere insieme delle risorse per la formazione, poiché un aspetto molto importante delle nuove professioni creative, che non creativo qui non è sinonimo di ciarlatano, ma è appunto la formazione, quindi occorre sì inventarsi un lavoro, ma a ragion veduta. Ma non si improvvisa nulla, certo. Allora io ripeto, L'Inventa Lavoro, Morellini editore, l'autore Andrea Sartori che è qua con noi, e mi sembra di capire che, insomma, tu indichi tre linee, no, di sviluppo di queste professioni, che sono i servizi alla persona, la green economy, di cui noi qua in questo programma tessiamo le lodi ogni volta che possiamo, perché tutti gli indicatori sono in crescita, e poi anche naturalmente la rete, l'aspetto digitale. Vogliamo dire qualcosa per ognuna di queste tre direttrici, Andrea? Ma dunque, per quanto riguarda i servizi alla persona, le professioni che si stanno sviluppando e che hanno un'utenza, penso ad esempio al consulente filosofico, sia da parte dei privati sia da parte del pubblico, sono appunto quelle del consulente filosofico, del life coach, oppure di chi accompagna un cliente in un particolare percorso di benessere fisico o salutistico. Il life coach invece che cos'è? Perché sul benessere fisico, diete piuttosto che percorsi, esatto, magari anche di analisi psicologica o quant'altro, però invece il life coach che cos'è? Cioè proprio 360 gradi su tutta la linea, uno che ti dà... In realtà il life coach è focalizzato è un aiuto che che viene fornito per sostenere il cliente nel perseguimento dei propri obiettivi, in particolare professionali. Quindi la sua consulenza è finalizzata all'ottenimento del successo da parte nella vita lavorativa da parte del cliente. Diciamo qualcosa anche sulla green economy e sulla rete. Sì, per quanto riguarda la green economy mi sembra interessante sottolineare che negli ultimi anni si parla di professionisti nel settore degli eventi ecosolidali, non solo nel settore nella produzione di beni e di servizi certificati come ecosolidali o ecosostenibili. Nell'ambito del green marketing, ad esempio, si tratta di aziende o di singoli professionisti che realizzano degli eventi che passo per passo in ciascun anello della fornitura che è necessaria per la realizzazione dell'evento utilizzano beni o servizi certificati come ecosostenibili. Ad esempio nella realizzazione di un matrimonio c'è la possibilità di rivolgersi ad un'agenzia, io ho parlato in particolare dell'esperienza di Valentina Montresor a Torino con l'agenzia Giusti Eventi, che realizza un matrimonio etico, ovvero utilizza dei fornitori che dalla carta utilizzata per gli inviti fino all'utilizzo dei mezzi di trasporto a emissioni zero mette insieme un evento che ha un impatto positivo sull'ambiente. Insomma, capirete, nuove esigenze per persone che e per atteggiamenti, insomma, persone che cambiano con il tempo, perché anni fa nessuno si sarebbe posto queste domande, avrebbe espresso queste esigenze, invece adesso sì. E poi c'è la rete, no? Anche lì diciamo due parole, perché la rete è una vera e propria esplosione di professioni. La rete è probabilmente il settore in cui il cambiamento è ancora più tumultuoso e segna dei passi in avanti anno per anno. Alcune delle professioni che sono comparse anche in Italia dopo essersi affacciate sul mercato dei paesi anglosassoni sono quelle del social media manager, del blogger professionista, dell'addetto stampa online, per certi versi anche del citizen journalist, cioè dell'uomo comune, dell'uomo della strada che vivendo in un determinato territorio è testimone in diretta di episodi di cronaca o di interesse per delle inchieste che trovano visibilità in particolare sulla rete presso siti o testate che stanno anche iniziando a retribuire dei contributi di questo tipo. Difatti una caratteristica di questo lavoro, ma anche di altri, è quella di affacciarsi sul mercato in punta di piedi sotto forma di prestazione volontaria, diciamo. Poi in un secondo momento nasce un interesse tale per cui anche i marchi già affermati, ad esempio, scelgono di investire su un blog specializzato in un argomento specifico. It ain't worth it here, it ain't worth it here, I'm never gonna persevere. Ain't no money for new shoes or purses here, should have done my first trip, huh, nursing, yeah. Now I'm sitting here thinking about the work I put in, this verse from the everyday working woman. I put on my pants, put on my shoes, I pray to God, paid on my dues. I'm trying to win, seemed like I was born to lose. I hate my job, dice questa canzone, è una condizione diffusa quella di odiare il proprio lavoro, purtroppo, magari poi non è sempre così, però sappiate che da adesso se siete in questa condizione, che il vostro posto di lavoro non vi piace, c'è un posto dove potete andare a sfogarvi su internet, è una nuova piattaforma, un nuovo sito che svolge questa funzione qua, si va e si lascia una recensione, si dice quello che va e quello che non va del proprio posto di lavoro in modo che altri avranno la possibilità di sapere in anticipo cosa si trova andando a lavorare lì. E allora noi ne parliamo con uno dei fondatori di votaazienda.it, Roberto Dallongo. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. E allora, insomma, una sorta di trip advisor dei luoghi di lavoro, brutalizziamo, semplifichiamo, è un po' questa l'idea. Sì. Tanto trip advisor tutti sanno che cos'è. Sì, esatto, appunto, è un po' un paragone che è chiaro a tutti. Ci può stare. Come vi è venuta in mente questa idea qua intanto? L'idea nasce dal fatto che online è difficile trovare molto spesso delle opinioni su quelle che sono le esperienze di lavoro, diciamo che si trovano e molto spesso però sono sparse all'interno di blog e molte volte non hanno un approccio costruttivo. Insomma, ma spesso sono delle politica. Vere e proprie sfoghi, oppure cose polemiche, magari anche molto pesanti. Niente, voi esatto. Ci volete fare una cosa un po' più costruttiva, no? In che esatto, modo, Roberto? L'idea. Sì, appunto, l'idea è appunto di stimolare una collaborazione tra le persone e le aziende per avere un beneficio reciproco, quindi sia per i lavoratori che per le aziende. In che modo però? Beneficio per esempio per le aziende, perché se io vado sul sito votazienda.it e sputtano letteralmente la mia azienda, mettiamo Radio 24, dico che si lavora malissimo, si sta male, ti trattano come un cane, che non è vero, però insomma è un'ipotesi. In che modo l'azienda può beneficiare tutto questo, Roberto, invece? Beh, allora, adesso stai partendo dal presupposto che le recensioni siano necessariamente negative, ma molto spesso diciamo che l'esperienza fatta fino adesso molte sono invece positive, le recensioni ricevute. Comunque diciamo che da tutte le opinioni l'azienda può capire in quali aree intervenire e migliorare l'ambiente di lavoro per i suoi dipendenti, che quindi chiaramente possono poi essere più stimolati a lavorare in maniera produttiva e in maniera innovativa. E questa era l'ultima storia che vi siamo andati a riproporre oggi nella puntata del Meglio di Si Può Fare, l'appuntamento a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Ci fermiamo qua per oggi. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Valeria Bernardi in regia. Restate con noi perché ci risentiamo sabato prossimo, sempre a mezzogiorno su Radio 24. Non c'è la puntata della domenica, che ritroveremo invece da settembre. Intanto buona giornata. See you.